Diamo il via a questa serata e vi ringraziamo di essere così numerosi a questa bella occasione per la presentazione del libro Oliena nel cuore, un uomo, due paesi, ricordi di un sardo in Alto Adige. Ecco, io ringrazio innanzitutto Pietro Congiu che è qui con noi questa sera, ma ringrazio anche Ilaria Congiu che è qui con noi, ringrazio anche un altro relatore che è qui con noi, Mattia Liliu. Vi anticipo che ci sarà un messaggio del dottor Lampis che non può partecipare questa sera ma che è vicino a noi ed è contento di questa iniziativa. Ringrazio anche il collega Luca Bizzari che è qui con noi in sala perché a suo tempo mi aveva mandato una mail dicendo questo libro è bellissimo, sarebbe interessante presentarlo e quindi detto fatto. La sala è piena, siamo sempre molto contenti che i nostri martedì vengano apprezzati. Qui al Centro Trevi ci sono tante occasioni di incontro, dalle mostre all'apprendimento linguistico, al centro audiovisivi, ma anche e soprattutto la biblioteca provinciale che organizza queste iniziative di promozione alla lettura, di incontri con le autrici e gli autori e quindi questa sera siamo molto contenti di avere l'occasione di conoscere il libro di Pietro Congiu, che è chiaramente un incontro tra memoria, sentimento, una terra di origine che è rimasta nel cuore, una terra invece che lo ha adottato, lo ha accolto, ma insomma che non è sempre forse stato molto facile. Due territori che hanno in comune un'autonomia, un forte senso dell'autonomia, quindi ci sono tanti aspetti che ci uniscono. Ma soprattutto direi che quello che a noi piace è poterci arricchire dei ricordi, della memoria e delle esperienze delle persone, tant'è che abbiamo già proposto anche una video intervista per il nostro archivio orale al signor Pietro Congiu. Lascerei la parola intanto al breve video messaggio del dottor Lampis che ci teneva molto, buonasera, e direi che oltretutto lì all'ingresso abbiamo anche, lasciamo sempre dei volantini con dei piccoli promemoria perché la biblioteca anche domani organizzerà un'altra iniziativa e comunque tutti i martedì e mercoledì ci troviamo qui in questa sala per dei nuovi libri, per dei nuovi suggerimenti di lettura oppure dei dibattiti. Bene, allora direi che chiedo al nostro tecnico se può partire e poi lascerei la parola a voi che ringrazio ancora molto. Grazie. Buonasera a tutti, sono Antonio Lampis, sono il direttore del Dipartimento Cultura e Sviluppo Economico della Provincia Autonoma di Bolzano. Purtroppo non posso essere lì alla presentazione del libro del bravissimo Pietro Congiu per un motivo personale che non potevo spostare, ma ci tenevo tantissimo a salutare l'autore che conosco fin da quando ero bambino ed è testimone dello sforzo che abbiamo fatto insieme all'assessore Galateo per sostenere questa presentazione, la pubblicazione e avere una relazione con Paolo Fresu che ha scritto una meravigliosa prefazione e è per me motivo di grande soddisfazione il lavoro del nostro ufficio Educazione Permanente, Biblioteche Audiovisivi a sostegno dell'editoria e in questo caso a sostegno di questo libro Oliena nel cuore di Pietro Congiu che veramente riprende la memoria di una persona che è stata molto importante per la vita culturale di questa provincia, presidente di un circolo culturale per tantissimi anni e molto importante anche nella vita sociale di questa provincia. Quindi la parola scritta gli rende stabile per sempre il ricordo e quindi auguro a tutti di leggere questo libro, di ripercorrere queste vie, questi fili tra l'Alto Adige e la Sardegna e vi auguro una buona serata in ascolto di quello che sarà detto. Grazie dell'attenzione. Grazie per questo saluto che ci ha mandato direttamente il dottor Antonio Lampis. Io vi auguro un buon pomeriggio, un buon ascolto. Vi ringrazio veramente tanto per essere qui presenti. E io sono, per chi non mi conoscesse, sono Ilaria Congiu e sono qui in una doppia veste questa sera, e di ideatrice un po' di questo libro, di questa raccolta di racconti dell'autore, che è mio padre, Pietro Congiu, e ne sono molto orgogliosa. È qui con noi anche Mattia Lilliu, che è per la casa editrice Libri Liberi di Firenze, con il quale abbiamo collaborato per la realizzazione di questo libro. E visto che c'è anche il direttore dell'ufficio educazione permanente Luca Bizzarri, ringrazio anche lui perché appunto con il dottor Lampis ci hanno poi dato la possibilità e ci hanno sostenuto per la realizzazione di questo progetto, di questo sogno che si è avverato. Io passo subito alla presentazione di questo libro, che vorrei fosse entrasse subito a vostra disposizione nel senso di racconto, così come è stato pensato. E quindi leggerò alcune parti tratte dal libro, non tutto perché vi deve anche incuriosire, e leggerò, ma soprattutto ascolteremo magari direttamente da papà, le parti salienti o comunque degli aneddoti direttamente dalla sua bocca, perché a 93 anni non è, penso, così usuale trovare autori che possano raccontare in maniera così con una capacità oratoria come quella che si ritrova il mio papà, quindi penso sia un arricchimento per tutti noi. Oggi emozionatissimo, però cominciamo, direi. Allora, questo libro parte direttamente da Oliena. È stato pensato dalla piazzetta dove mio padre è cresciuto, un quartiere di Oliena che si chiama Suriveddu. Piccolo rivo? Bah, lui mi corregge, perché casomai avvicinati. Sì, è un piccolo. Inizierei soprattutto leggendovi le parole con il quale lui apre questo libro. Era il 19 gennaio 1952 quando Bolzano mi accolse ancora con i profumi di Oliena addosso. Era una mattina gelida e grigia. Sul viso imberbe la lanugine cercava di riscaldare quel viso pallido per il lungo viaggio e l'insonnia. Bolzano, questa sconosciuta, è stata negli anni mia maestra di vita. Ha accolto il mio corpo, lo ha fatto uomo, padre e nonno felice, ma ha lasciato che la mia anima continuasse a librarsi su Oliena, culla indimenticabile dei miei sogni e che a Bolzano si sono avverati. E ancora, tratto da una sua... Lui non vuole che io le chiami poesie perché non è un poeta, però tratto da queste sue, diciamo, dai, fra virgolette, poesie. Ti ricordo, Oliena, quando ti ho lasciata. Era di maggio del 51, giovane vita e ben incominciata, ma quel distacco non auguro a nessuno. Or che ho superato i 90 anni, dagli affetti più caro circondato, ringrazio Dio che me li ha donati e Oliena non averti mai dimenticato. Ecco, lasciare la propria casa, i propri affetti, sicuramente non è facile. Spesso ho pensato anch'io, come si può lasciare tutto quello che ci appartiene, dove si nasce, dove si cresce. È sicuramente un distacco che fa male a tutti gli emigrati che hanno dovuto subire questa violenza, diciamo, chi per necessità, chi per curiosità. E quindi, insomma, lasciare Suriveddu. Se ci pensi adesso a Suriveddu, che cosa ti viene in mente, papà? Sempre quello. Amici, tutto. Tutto quello... era tutto. Era tutto. Perché... Era tutto e vediamo che cosa tutto. Adesso leggiamo, scaldiamo l'ambiente, dai, così, perché dobbiamo calarci un pochino in questo rivedo. Voi immaginatevi un paesino di 7.000 abitanti, Oliena. Adesso, allora è 4.000. Sì, scusa, hai ragione. Subito, tac, meno male che non ti hanno dato un frustino, sennò... è un paese veramente carino. Ovviamente facciamo anche marketing e sponsorizzazione. Chi di voi verrà in Sardegna da qua in poi deve passare assolutamente anche ad Oliena. È centro Barbagia, a 10 minuti da Nuoro, quindi insomma dovete passarci. E è un paese accogliente, allora sicuramente forse un po' meno, strade acciottolate e qui ci caliamo in Suriveddu. E papà ne parla così. Da quella piazzetta si accedeva alla trattoria, vini e liquori di mio padre Rimondeddu, che constava in tre locali comunicanti. Il primo adibito alla mescita delle bevande, la sala adibita al ristorante e la cucina. Come trattoria ha funzionato dal 1938 al 1942, quando la guerra ha bloccato ogni iniziativa e ridotto quasi alla fame la comunità. Io, cresciuto in quel rione come primogenito, ero il factotum della famiglia. Accudivo i fratellini più piccoli in assenza di mia mamma, portavo l'acqua, insomma, garzone tutto fare. Ed era così. Ed era così, in un periodo che non è possibile dimenticare, perché sono momenti terribili, perché mancava di tutto. La guerra davvero inizialmente sembrava che non ci appartenesse, invece mano a mano che si andava avanti, quando siamo arrivati al 42, addirittura è arrivato in paese un battaglione dell'esercito ripiegato dall'Africa, e quel battaglione ha spogliato il paese. Non solo delle cose che potevano prendere dentro le case, che a quei tempi nessuno riguardava, no? Era tutto aperto, dappertutto. Nel giro di tre giorni non c'era più una lampadina in casa, non c'era più niente. Si erano portato via tutto, pentole, ma il più grave era la verdura dei campi, dove le nostre mamme andavano a raccogliere e che ci sfamavano. Arrivati loro, hanno reso il terreno nudo, no? Perché anche loro, poveretti, avevano fame. Però siamo andati avanti. E a proposito di rubato, mi viene in mente questo aneddoto che tu racconti ogni tanto, e dell'aeroplanino del negozio di Ciununciatu. Mia sorella già ride, perché ci sono, dovete sapere, mio padre non voleva assolutamente che io pubblicassi niente, nel senso che, vabbè, ve lo racconterò poi alla fine, ma lui tutti questi racconti ce li ha sempre raccontati così, spontaneamente, durante un pranzo, una passeggiata, ogni occasione era buona se c'era uno spunto per raccontarci qualcosa di antico, diciamo, ma certe cose ci hanno fatto ridere, non perché fossero così tanto, insomma, che ci fosse tanto da ridere tutto sommato, però per come le raccontava in maniera così tutto sommato spensierata, cioè pensando a queste cose qui, per un attimo sicuramente dimentichi dove è collocato il periodo e tutto quello che hanno dovuto passare. Quindi raccontaci un po' di questo aeroplanino, cos'è successo? L'aeroplanino era un negozietto che c'era di articoli da regalo di un signore lì del vicinato, e tutte le mattine io passavo e guardavo questo aeroplanino, e lì mi sognavo di essere in aereo, di volare, no? E dai oggi, dai domani, no, questo aeroplanino gliel'ho portato via. E l'ho portato a casa. La notte, mi ricordo, a letto, no, me lo coccolavo, però l'indomani mattina se ne accorge mio padre, mi chiese chi me l'avesse regalato, e gli raccontai che me l'aveva dato. Non l'ha bevuta e mi ha portato dal negoziante a restituirglielo. Non vi dico il contorno dopo, no? Da quel giorno di aeroplanini non ne ho più. Non è più rubato. E il racconto dell'aeroplanino Papà lo conclude così: oggi quando viaggio in aereo guardo fuori dall'oblò in cerca di Rimundeddu, mio nonno, per ringraziarlo di aver fatto di me una persona onesta, perché sicuramente tutto quello che capitava dopo le marachelle di papà, che era insomma un po' pesante. E c'è anche un'altra di questi racconti che è sempre, fa sorridere, perché mi immagino tipo Flintstone. No, tranquillo, non è il tuo, l'ho silenziato. No, non c'è problema. E, è praticamente, allora, mio nonno aveva anche fra le varie cose, perché i miei nonni erano commercianti e si sono, perché adesso uno scoop, mio padre è nato a Roma. Oh boh, qua ci sta il boato, oh, come a Roma, eh. È nato a Roma semplicemente perché i miei nonni erano lì per caso, quindi all'età di 2 anni poi mio padre è tornato, l'hanno riportato in Sardegna e lì ha continuato a crescere. Il nonno si è sempre un po' industriato a creare appunto l'osteria, ha cercato insomma di fare il commerciante così come aveva visto fare a Roma. Aveva anche provato ad adibire questo negozio di noleggio biciclette, che però vi lascio immaginare in questo paesino con l'acciottolato, con insomma una bicicletta. Però tu una bicicletta sei riuscito a trovarla? La bicicletta sono riuscito a trovarla e nascosta. Naturalmente la usavo quando mio padre non c'era. E aveva i cerchioni in legno, giusto? Aveva i cerchioni in legno, senza gomme, senza copertoni. E io salivo a piedi su questa strada in salita e poi scendevo sul sensato dondolandomi su questa. E un giorno un mio compagnetto mi chiese se gli davo un passaggio, e come no, quindi l'ho caricato su. Quando siamo arrivati allo scolo di un pozzo che c'era, no? L'avvallamento ha reso questa ruota, l'ha distrutta, gli sono caduto addosso, gli ho fatto un taglio di traverso, non vi dico quello che è successo. Sappiamo cosa è successo, sempre no, la solita cosa che succedeva. E da quella volta io non sono più andato in bicicletta, ho imparato dopo. Perché poi arrivava il nonno e erano guai. Prima hai parlato anche della guerra, dei soldati, e una delle cose che anche mi è sempre rimasta impressa era un po' come questo fascino, che per fortuna noi non conosciamo, ma questo fascino per voi bambini di vedere i soldati, la divisa, i carri armati, spesso vi chiedevano di aiutarli a caricare i camion. Adesso leggo da questo piccolo racconto qui, questa esperienza irripetibile, perché in realtà anche questa gli è servita come esperienza di vita, perché tutto quello che succedeva, papà... Quella volta lì io ho aiutato i soldati a caricare il camion assieme ad altri miei compagnetti e alla fine ci hanno dato una sigaretta per ricompensa. Figurarsi, sta la milite. Era una milite, no? Usavano i soldati. Allora, presi questa sigaretta, sembrava che avessi una pipita d'oro, no? Sono salito nel cortile della scuola, che era chiusa, mi sono nascosto in un angolo, sicuro che mio padre non mi avesse visto, mi accendo sta sigaretta, sembravo Padre Eterno. Solo che ho aspirato il fumo e ho sentito come mi strappassero i polmoni, no? La nicotina, e sono svenuto e sono tornato a casa, no, fra un vomitetto e l'altro, no, e non ho detto nulla, però il ragazzo di sigaretta non è più messa in bocca e mi sono tolto il vizio di fumare. Per fortuna. Questa è l'avventura delle sigarette. Vedi, è un'altra cosa che questa è la mia preferita. Allora, in questo paese, che probabilmente è molto simile a tanti altri, anche sicuramente insomma, che avete vissuto anche voi, i vostri nonni, i vostri genitori, ma praticamente ogni famiglia possedeva una capra, perché ovviamente la capra garantiva latte fresco la mattina, e quindi c'erano queste capre che sembravano quasi dei cani, perché erano talmente ben addestrate che la mattina uscivano dalle case, dove, nei cortili dove erano, arrivavano fino in fondo al paese. Lì c'era un pastore che le raccoglieva tutte, le radunava e le portava al pascolo. E poi queste capre la sera venivano riportate in paese e una ad una, brave brave, tornavano nelle case dei proprietari. Ma ovviamente anche a papà è successa un'avventura con questa... Anche a me è successo, mi è costata capra. Capra di Ciamintonia. Questa capra tornava regolarmente, come tutte, la sera a casa della padrona. Quella sera non è tornata. Non è tornata, e allora chiese sta Ciamintonia se avevo visto la capra. Oh, ho detto no. Non cercatela, perché se la sono cucinata stanotte nell'osteria, mio padre con i suoi amici. Caspita, come ho detto questo, lui è partita subito da mio padre e io lì ho incominciato a capire che l'avevo combinata grossa, perché vedevo mio padre che diceva alle insistenze di quella donna della capra, dice vai che io non... E poi indicava me, per dire, me l'ha detto lui, quindi la capra l'avete mangiata perché lui mi ha accertato questo. L'anima giovane. E io sono tornato... Mi ha chiesto mio padre, non vi dico il contorno che mi ha dato mio padre. Lo sappiamo. No? Quindi, ormai stanno imparando a capire che il contorno per papà era ben... Anche quello ricordo. Adesso passiamo da Oliena, cominciamo ad avvicinarci all'Alto Adige, perché a un certo punto una delle possibilità per andare via dalla fame, dalla disperazione di quegli anni, di quei paesi, della Sardegna, che forse da quello che racconta papà comunque non era molto diversa dai paesi dell'Alto Adige una volta che è arrivato qui. Comunque papà ha deciso di arruolarsi nei carabinieri. Perché papà proprio i carabinieri e non qualche altro corpo? Ma perché era più facile, diciamo, la richiesta di personale dell'arma era più... Era superiore a quelli della finanza, che avevano meno contingente sotto le armi, e quindi l'arma era, diciamo, lo sbocco più facile, e mi è andata bene perché... Però c'erano anche un paio di carabinieri che frequentavano l'osteria, no? Sì, i carabinieri ovviamente mi hanno invogliato, perché mi sollecitavano a crescere, perché mi avrebbero fatto carabiniere, io mi vedevo già... In uniforme. Beh, questo vi leggo comunque un pezzetto tratto appunto da Il Distacco, si intitola così. La sera del 4 maggio, dopo aver salutato amici e parenti, mi ritirai nel Cilleri di Suriveddu. Ho trascorso assieme a mia mamma e mie sorelle le ore antecedenti la partenza, che sarebbe avvenuta a piedi da Oliena a Nuoro. Mio padre era occupato con i clienti, quella sera numerosi ed euforici. All'1:30, per ultima, abbracciai mia mamma, incinta all'ottavo mese di gravidanza, e lasciai Suriveddu con una valigetta con poche cosette dentro. A Santa Maria mi feci un bel segno di croce e rivolsi un'invocazione alla Madonna, da sempre suo devoto, perché mi accompagnasse in quel viaggio determinante per la mia vita futura. E immagino che quel distacco te lo ricordi ancora oggi. Quel distacco me lo ricordo, perché l'ho dovuto fare intanto a piedi da Oliena a Nuoro, e non c'erano, intanto era 1:30 di notte, e ricordo che lo feci pregando e invocando che se non mi avessero preso, non mi avessero arruolato, meglio morire, perché lasciatemelo dire, le condizioni di vita in quel periodo in Sardegna, io parlo del mio paese, di Oliena, era terribile, no? Dovevi lavorare 12 ore, ti davano un pezzo di pane e basta, quindi non era una vita davvero disastrata. E quindi per me era lo sbocco naturale e unico che mi si presentava. E fortuna ha voluto che è andata bene. Sono arrivato a Cagliari e Cagliari mi hanno fatto idoneo, ed è lì iniziata l'avventura. Non c'era il nonno qui che... No, non c'era il nonno. Il nonno non mi aveva... Non voleva che mi arruolasse, aveva ragione, perché ero il ragazzo, il figlio più grande, quindi gli ero molto di aiuto, e sapeva che andando via gli mancava una mano d'aiuto notevole, però io dovevo pensare alla mia vita e mi è andata bene. E quindi la nostra storia, il nostro Pietro si trasferisce praticamente in Alto Adige, una terra sicuramente difficoltosa anche in quel periodo, quindi, o soprattutto in quel periodo. Ma naturalmente Pietro ormai l'avete cominciato a conoscere, sto giovanottino qua che comunque ne combina qualcuna. E quando arriva in Alto Adige non poteva sicuramente andare liscia. Quindi cosa succede? Che il 19 gennaio del 1952 lui arriva a Bolzano, lo caricano su un treno diretto a Merano perché la sua sede di destinazione sarebbe stata Dorf Tirol, quindi sarebbe stato il paesino sopra Merano, Tirolo. Naturalmente lui arrivava con la sua valigetta, non consapevole nemmeno dei mezzi di trasporto dell'epoca, quindi lo caricano sul treno, arriva a Merano e scendo, c'era un freddo boia, no? Saranno scesi una dozzina di passeggeri, sono spariti, e io mi trovo con questa valigia, un moschetto, vai a Tirolo, e dov'è? Esco fuori dalla stazione, e da un carabiniere, e in sardo, come mi avesse, insomma si vedeva che... Beh, un po' scuretto eri, eh? In sardo mi dice, ma dove cavolo vai tu? Mi si è aperto il cielo, uno che mi parla nella mia lingua, no? In quel momento critico, ho detto qua, e gli ho detto appunto a Tirolo, corri, dice che c'è una seggiovia che chiude alle 7, se arrivi in ritardo dice non puoi più andare su. Quindi mi prende la valigia, gli andai dietro e di corsa arrivammo alla stazione della seggiovia di Tirolo. Mi porta su davanti al seggiolino, letteralmente mi caricano sopra, mi mettono la borsa sopra il seggiolino e via. In un attimo ero inghiottito dal buio, un freddo, un vento che scendeva lì dalla Venosta, terribile, no? Sul più bello, boom, si blocca sta seggiovia. E gli sembrava un pendolo, no? Che dondolavo lì, avanti, indietro. Ho detto, si metterà in moto, no? Ah, che moto? Io ero lì, un freddo, boia, lì, no? E ho detto, urlare, scendere giù, saltare giù, impossibile, c'erano 50 metri. Urlare, era un carabiniere, scherziamo, mettermi a urlare, no? E insomma rimango lì e passano ben 20 minuti, io ormai avevo già perso la speranza di poter essere salvato. Già pensavo a Uliena, ai funerali, ai crisantemmi, no, insomma. Trovato ghiacciato. Ho detto, ero lì proprio, e si mette in moto. Si mette in moto, sono arrivato su. E per fortuna, insomma, sono arrivato e lì è iniziata la... Cos'era successo però? Era successo che l'operatore della seggiovia non aveva segnalato la mia presenza in linea all'operatore che era su a monte, che manovrava la partenza di questo... Quindi se ne va e per fortuna, arrivato lì vicino ai portici di Merano, non so chi conosce... Perché me lo raccontava lui. Ho detto, ma si è fermata troppo presto, dice, non può essere arrivato il carabiniere. E per fortuna torna indietro e chiama su. Si è arrivato il carabiniere. Quale carabiniere? Metti in moto che c'è un carabiniere in linea. E sono meno qui, male. E sono qui a raccontarvelo. Meno male. Allora sì, in effetti il freddo di Bolzano, sento sempre raccontare da papà questi meno 30 di Resia, meno 20, noi non ce li immaginiamo neanche, ma soprattutto un'altra cosa che mi ha fatto sorridere spesso, però praticamente questa differenza tra la coperta che si usava ad Oliena, quindi questa zavressada si chiama, pesante, quelle di... non so se ero. Sì, era una. Dunque, in Sardegna, specialmente nella provincia di Nuoro, è una zona dove d'inverno fa freddo, no? E lì non c'era riscaldamento. Il riscaldamento era caminetto. E la sera, quando si andava a letto, ci si metteva delle coperte di lana, proprio tessute a mano dalle nostre nonne, e con quella, quando ti mettevi sotto, era, stava bene, insomma. Quando sono arrivato invece a... In Val d'Ultimo eri? In Val d'Ultimo, per le elezioni, mi danno una camera in un albergo ghiacciata. Poi vado a vedere il letto c'era una copertina... Ho detto, qua io muoio stanotte. Non sono morto sulla seggiolia. Mi metto sotto e lì mi accorsi l'arcano. Quella cosa leggerina era il piumino. Quindi quando il piumino incominciò a fare effetto, il riscaldamento, perché vi premetto che non si usava il pigiama allora. Allora, così come mamma t'aveva fatto. Come mamma da faccia, un paio di mutandine di tessuto grosso, no? Non di popelin. Insomma, e anche quella notte lì, insomma, mi è andata bene. Sono... Insomma, devi anche aver avuto un bel fisico forte, perché dopo tutte quelle che hai passato. Allora, questa storia di caserma, ovviamente come carabiniere anche, hai portato, vabbè, come carabiniere ma anche come uomo, hai portato sicuramente Oliena e la Sardegna in Alto Adige in molti modi. E c'è stato anche un episodio della prima volta in cui hai, questo era a Passoresia se non ricordo male. Sì, a Passoresia. A Passoresia, nel, questi leggo perché non, allora, meno 30 gradi sotto zero, quindi nel 1956, un Natale fra i più rigidi e nevosi di quel secolo, appunto a Passoresia, dove io mi trovavo, si misuravano meno 30 gradi sotto zero. Mia madre mi spedì un barilotto di 8 litri di ottimo vino lianese, una forma di formaggio marcio e dolcetti vari. La mia gioia fu grande e la sera in sala mensa, davanti ai colleghi riuniti per la cena, esibì orgogliosamente tutto quel ben di Dio. La mia gioia però svanì di botto quando i colleghi, visti i vispi e saltellanti vermetti bianchi, uscirono dalla mensa schifati. Rimasi male e deluso, ricoprì per bene la forma di formaggio e diedi la caccia agli sfacciati vermicelli che erano già a spasso per la lunga tavolata. Messo al sicuro e lontano dalla vista, il formaggio richiamai poi i colleghi e offrì i dolcetti e il vino, che gradirono e trovarono eccellenti. Dopo il secondo bicchiere di vino, estrassi nascostamente del formaggio, lo misi dentro un tenero panino e via, non visto, a gustare i miei antichi sapori. Al terzo boccone e al quarto bicchiere di vino, il miracolo. Uno alla volta i colleghi presero coraggio e ad occhi chiusi ognuno mise in bocca un assaggino di quella crema semovente. Solo uno dei presenti capitolò sul tardi e solo dopo numerosi bicchieri di vino. La serata finì in allegria e con un inno all'esca maledetta, così era stato ribattezzato il formaggio marcio, tanto vituperato, ma che da sempre arricchisce la mensa barbaricina. Quindi... Sì, non erano piacevoli da vedere, perché sti vermetti bianchi. Ora, da noi in Sardegna eravamo abituati e non c'erano problemi, ma lassù, quando hanno visto sta roba, sono saltati su, fuori dalla stanza. Solo dopo il secondo bicchiere di vino qualcuno ha cominciato a saltare così. È finita. E non solo a livello culinario, ma anche a livello culturale. Molti di voi lo sanno, papà è stato presidente del Circolo Sardo per oltre 30 anni e in questi anni, insomma, ha fatto conoscere la cultura, appunto, del porcetto, ma anche attraverso la cultura proprio sarda, chiamando, insomma, diversi conferenzieri. Ha fatto proprio un lavoro di conoscenza e ambivalente, sia di Sardegna in Alto Adige che viceversa di Alto Adige in Sardegna, perché numerose delle persone che si sono iscritte al circolo e conoscendo pian piano insomma un po' tutti, tutti i soci, comunque anche provenienti da diversi paesi, ma l'ospitalità insomma è sempre sovrana. E alla fine chi va in Sardegna, chi è andato in Sardegna soprattutto in quegli anni, ci è andato probabilmente a maggior ragione perché aveva conosciuto un pezzetto di Sardegna qui a Bolzano. E leggo a questo proposito una lettera che mi ha scritto l'ex sindaco di Oliena, Salvatore Serra, che fu sindaco nel 2013 quando Oliena è stata colpita da un'alluvione. In quell'anno ci furono diverse alluvioni, una in particolare colpì Oliena e distrusse un parco che c'è ad Oliena, il parco del Gologone, e tutto il fango che è derivato aveva rovinato anche una chiesa del 700 che c'è tuttora, quindi si vedono ancora i segni, la chiesetta della Pietà, si vedono ancora i segni del fango, è stata ripulita e la provincia di Bolzano ha aiutato molto perché appunto c'è stata questa richiesta e questo contributo che sensibile la provincia di Bolzano alla natura tanto quanto in Sardegna a quel luogo. È stato insomma un evento che si ricorda ancora. E Salvatore scrive: quando si parla di Pietro Congiu è impossibile non pensare a un ponte, a una connessione viva e pulsante tra due mondi apparentemente distanti, Oliena e Bolzano. Due realtà che grazie al suo impegno e alla sua capacità di costruire relazioni autentiche si sono avvicinate fino a creare un legame di amicizia e solidarietà che dura nel tempo proprio grazie a lui. Era il 2013 quando un'alluvione colpì duramente Oliena. Pietro si fece portavoce delle necessità del nostro paese presso la provincia di Bolzano, riuscendo ad ottenere un aiuto finanziario significativo. Questo gesto non fu soltanto un atto di solidarietà concreta, ma anche la dimostrazione di come i legami umani possano superare ogni distanza geografica. Ecco, anche essere presidente del circolo per te, lo sappiamo bene in famiglia, perché quegli anni lì sembrava, la mamma lo diceva sempre, sempre sposato col circolo, perché era sempre al circolo. E quindi è stato gran parte della tua, della nostra vita, ma perché l'impegno e la dedizione che ci hai messo, come in tutte le cose, devo dire, è sempre stato totalizzante questo per te. Quindi hai portato avanti sempre progetti molto belli e del quale insomma puoi andare orgoglioso e fiero come tutti noi. Che cos'era però questo circolo per te? Cosa ha rappresentato anche? Beh, era un punto di incontro fra due culture e ne ho approfittato. E visto che la provincia appunto finanziava le attività che noi svolgevamo, io mi sono dato da fare e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, no? Quindi viaggi fatti in Sardegna, ma bene, manifestazioni fatte qui a Bolzano. Uh-huh. Un modo come un altro per farsi conoscere ed abbracciare un'altra cultura diversa dalla nostra. Torniamo un attimo agli olianesi e a Bolzano. Praticamente è successa una cosa affascinante, no? Tu sei arrivato a Bolzano e hai praticamente scoperto che due generazioni, la stessa strada, due carabinieri, è successo che praticamente hai conosciuto qui a Bolzano quello che sarebbe diventato poi tuo suocero. Il mio futuro suocero, Sebastiano Caboi, noto cocciano classe 1900, si arruolò a 17 anni nell'arma dei carabinieri. Era presente quando il 4 novembre 1918 le truppe italiane entrarono in Trento e issarono il tricolore sul pennone del Castello del Buon Consiglio. Dal Brennero, nel 1934, a seguito di matrimonio, fu trasferito alla stazione carabinieri di Bolzano Oltrisarco. La Seconda Guerra Mondiale lo impegnò nel territorio e l'8 settembre, con l'armistizio, dovette nascondersi per evitare di cadere in mano dei nazisti. La caccia ai carabinieri, per essere inviati in campo di concentramento in Germania, era senza tregua. E così visse vita da clandestino fino alla fine della guerra. Questi ricordi mi furono raccontati nel 1952 da Sebastiano Caboi, che conobbi quando come carabiniere fui trasferito alla Legione di Bolzano. Lui andò in congedo subito dopo la guerra e fu impiegato alle dipendenze dell'allora Cassa Mutua Provinciale di Malattia e morì a Bolzano all'età di 57 anni, lasciando la moglie e una figlia che è la mia mamma. Però prima di arrivare alla mamma, dovete sapere che il mio papà era anche abbastanza... era bellino, era un carabiniere, era sardo, girava i paesini dell'Alto Adige, ha sempre avuto ragazze sudtirolesi. Ma prima ancora delle ragazze fisse sudtirolesi, questa storia d'amore che io, quando me l'ha raccontata la prima volta, tra l'altro non l'ha nemmeno raccontata a noi, stava raccontando ad un'altra persona, e io guardavo lui, guardavo la mamma e dicevo: oh, ma sta scherzando, ma questa non è possibile, ma questa non la sapevo, ma come? Ma insomma, si chiamava Ursula, era germanica, una professoressa di matematica. E come è successo che papà l'ha incontrata? Lui era a Resia, tranquillo, seduto in un caffè, gioca, come facciamo tutti, anzi d'ora in poi fatelo con cognizione di causa, giocava con un sottobicchiere di quelli della birra, e dietro a un certo punto legge: "Wer schreibt mir?" L'intraprendenza qua. E papà ha scritto: "Chi mi scrive?" C'era scritto su questo sottobicchiere. E adesso vi leggo un pochino. O la vuoi raccontare tu? No, meglio leggerla. Qua mi scopre gli altarini. Allora non la leggo tutta perché è lunga. Penso che sia la storia più lunga del libro. Però, allora, fu durante il consumo di un caffè che presi in mano un cartoncino sotto bicchiere dove sul retro troverai scritto: "Wer schreibt mir?" Chi mi scrive? E seguiva l'indirizzo. Con l'ausilio di un buon vocabolario cercai di rispondere e comunicare quanto bastava a far capire che avevo letto il messaggio e soddisfare la sua curiosità. Con Ursula, questo il suo nome, e Peter, il mio, iniziò una notte, era anche già switchato in tedesco, non era più Pietro, era Peter. Peterle. E Peter, il mio, iniziò una nutrita corrispondenza fra Berlino, dove lei risiedeva, e Passo Resia, con reciproco scambio di fotografie. La ragazza in foto appariva veramente bella e io mi sentivo lusingato di aver potuto conoscere per corrispondenza una bella ragazza germanica. Trascorse esattamente un anno quando mi comunicò che sarebbe venuta a trovarmi e a trascorrere con me una settimana insieme sul lago di Garda, dove aveva già prenotato una camera all'hotel Miralago di quella città d'Alcustre. Cioè, detto fatto. Fui preso dal panico, anche perché le mie finanze di giovane carabiniere non mi consentivano di trascorrere una vacanza così, ma chiesi comunque al comando ferie per una settimana. Adesso ometto, non è vietato ai maggiori di 18, però insomma, ometto, e insomma vanno avanti un po'. Però cosa succede? Che contemporaneamente mio padre scrive: intanto la situazione politica in Alto Adige andava deteriorandosi e gli attentati si fecero sempre più cruenti. L'ennesimo incontro con Ursula avvenne in occasione di un attentato dove rimasero uccisi alcuni colleghi. L'ira e il rancore si moltiplicarono e le azioni di vigilanza diventarono sempre più strette e senza tregua. Questi avvenimenti fecero saltare ogni programma futuro e con grande rammarico chiudemmo quella relazione nata come per incanto e sciolta come neve al sole. Vabbè. Però, diciamo, a questo punto direi io, per fortuna, perché altrimenti sarei figlia di Ursula e non figlia di mamma. Allora, la mamma. Come l'hai conosciuta la mamma? Dai, raccontalo, perché è una storia romantica. Sarebbe carino. Te la ricordi, sì? Beh, sì. Diciamo che il nostro pellegrinare ha portato inevitabilmente a conoscere quella che sarebbe stata mia mamma, ma tua moglie. Allora io vi posso garantire una cosa: sono sposati da quanti? Mamma, non piangere, in prima fila piange, ma sempre la mamma piange. Quanti anni siete sposati? Dal 62, fidanzati dal 60, quindi fate voi i conti. Io vi dico solo che tutt'oggi i miei genitori vanno in giro per mano, si danno i bacini affettuosi, sono una coppia esemplare. Quindi se mio padre ogni tanto si emoziona ancora a raccontare, io penso che sia una cosa bellissima e che vada premiata, quindi anche se ti ha detto mamma, perché io continuo a dire mamma. Beh, è stata mamma, mamma di quattro, come salva di quattro figli, quindi... Brava. No, insomma, dopo tutte queste ragazze su tirolesi con le quali andavi a trovare, com'è che è successo che sei andato a trovare la famiglia della mamma? Lì è stata proprio una come succede, mi scrivono dal paese, mia mamma dice: guarda che a Bolzano c'è una famiglia di olianesi. E allora noi, legati come siamo fra paesani, al primo permesso sono venuto a Bolzano a conoscere questa famiglia di olianesi. Sono andato a trovare dove abitavano, mi apre la mamma, non vi dico l'effetto che mi fece, perché è una donna energica, strong proprio. Prego, cominciamo bene. Ho detto: sono di Oliena. Oh, si è sciolta come neve al sole, no? Quindi sono entrato dentro e lì è iniziata. E poi mi trattenne a pranzo da buona olianese, e all'una arriva sta trappoletta di ragazzina, 12 anni, no? Mi ha dato la mano, mi ha fatto l'inchino, no? Tutta manierosa, se lo sapevo, no? E così è iniziata, piano piano la bambina è cresciuta, io ho avuto altre vicissitudini, no? E a un certo punto ci siamo trovati ad essere liberi tutti e due e siamo qua. Ecco, io abbiamo concluso questa presentazione. Io volevo soltanto raccontarvi brevemente com'è nata questa idea di questo libro, semplicemente perché appunto, come vi dicevo all'inizio, mio padre ha sempre raccontato volentieri questi aneddoti, queste cose, e poi è successo che è arrivato il Covid, tutti chiusi in casa, e su Facebook c'era questo gruppo Gente di Oliena e mio padre ha cominciato quasi quotidianamente a mandare la posta al lettore, mandava questi racconti, li scriveva, e ovviamente tutti i paesani sono rimasti stupiti e contenti, primo per la sua memoria, secondo perché parlava di ovviamente luoghi che tutti conoscevano, persone che magari alcune non c'erano più ma altre viventi, quindi si sentivano, insomma è nata proprio una cosa social veramente, dove insomma si è creata questa dimensione particolare. E io stavo già raccogliendo un po' questi racconti, ma hanno cominciato ad arrivarmi richieste dai paesani di raccoglierli in un libro, perché a tutti avrebbe fatto piacere avere una copia di questi racconti. Ovviamente ne ho parlato con mio padre, che no, assolutamente no, io ma va là, ma cosa è? Insomma, zitta ho raccolto e ho cominciato a informarmi, ho trovato la disponibilità e l'aiuto della provincia di Mattia, e insomma siamo riusciti a creare questo libretto che io adesso ho tutto segnato, perché facciamo questo, va? Questo fa più bella figura. E il colore non è casuale, il colore è azzurro Oliena, è proprio una definizione di colore. Se voi andate ad Oliena trovate cancelli, portoni, carretti, qualsiasi cosa il privato si dipinga, la dipinge con questo colore. Mattia è stato carinissimo perché mi aveva mandato una palette di colori diversi e ho detto: ti prego, tirami fuori l'azzurro Oliena, e così è stato. Quindi per me è stato veramente un sogno realizzare questo libro, un sogno essere qui con papà adesso a potervelo raccontare dalla sua bocca. E quindi niente, gli ultimi ringraziamenti che voglio fare sono a due persone che comunque hanno lavorato dietro le quinte, ma che mi hanno dato una grande mano, consigliato, dato spunti. Sono Federico, che è stato un prezioso consigliere e collaboratore, e Manuel, che agli albori di questa idea ha contribuito ad abbozzare l'impaginazione e l'archivio fotografico. E le fotografie purtroppo non ci siamo capiti sui formati, quindi oggi avremmo voluto anche proiettare le fotografie che ci sono nella parte finale del libro, che riguardano mio padre da piccolino in costume sardo, vestito da donna, ma non perché era una commedia anche in divisa, la nonna, insomma quelle classiche foto di repertorio. C'è anche il nonno, che ormai avete conosciuto come il contorno, ecco, e quindi non l'abbiamo potuto proiettare, ma ci sono. L'ultima cosa è papà degli introiti di questo libro non ha voluto assolutamente nulla, non vuole nulla. È stato pensato di, siccome lui era devoto a questa Madonna di Monserrata, che è un santuario che c'è alle porte di Oliena, e dove c'è una, praticamente ogni 3 anni c'è questo comitato che cambia, c'è una novena che viene, dove insomma c'è la novena di Monserrata dal 1 all'8, 9 settembre. E questo santuario è molto vivo, fa accoglienza ai visitatori, ai pellegrini, ai turisti, a tutti. E offrono da mangiare, fanno veramente accoglienza a tutto tondo, e organizzano anche delle serate di musica folcloristica, qualcosa per i bambini, insomma è una cosa particolare. È così da sempre, da quando mio padre era piccolo, e lui ci andava lì con mio nonno, perché nella piazza di questo santuario c'è un olivastro che ora è molto grande ed è stato ribattezzato Zoggiastro Rimondeddu, cioè l'olivastro di Rimondeddu, di Raimondo, che era mio nonno. Mio padre andava lì con mio nonno a vendere le bibite del bar, appunto dell'osteria che avevano. Per questo c'è molto legato, e a questa finalità saranno devoluti insomma i proventi di queste vendite. Io vi ringrazio dell'attenzione, spero che vi abbia fatto piacere. Grazie per essere venuti. Ecco. Vi ringrazio, ringrazio Ilaria che mi ha tolto dall'impiccio di parlare. No, se la cava bene. Grazie. Mattia, non so se vuoi dire qualcosa. Lascio adesso i saluti Bruno Meloni, che è l'attuale presidente del Circolo Sardo Eleonora d'Arborea di Bolzano. Buonasera a tutti. Ecco, buonasera a tutti. Ci tengo a ringraziare dottor Luca Bizzarri e dottor Lampis, i motori di questo libro. In più ringrazio il nostro presidente della FASI, dottor Bastianino Mossa. Vi saluto a tutti e saluta congratulazioni anche per Pietro. Io rappresento il Circolo di Cultura di Bolzano. Scusate. Ecco, quando ho letto questo libro sono rimasto profondamente colpito. La sua storia è toccante e risvegliate in me emozioni profonde legate ai ricordi che condividiamo tra Oliena e Bolzano. È stato emozionante vedere come, nonostante gli anni passati, lontano dall'isola, il legame con la sua terra sia rimasto così vivo. La nostalgia che emerge dalle pagine è la prova che la sua identità sarda è una fiamma che non si è mai spenta. Nel libro emerge con forza il suo sogno, arruolarsi nell'arma dei carabinieri. Ha servito la patria con amore e nonostante un percorso difficile ha dimostrato una resilienza e una determinazione fuori dal comune. Oggi anche la sua vita e la sua splendida famiglia sono qui a Bolzano. Sappiamo che un pezzetto del suo cuore resterà sempre tra le nostre montagne sarde. Grazie, caro amico, per aver condiviso questa storia con noi. Spero che questo libro possa dare a chi lo legge lo stesso conforto e la stessa gioia che ha dato a me. Ti stringo un fraterno abbraccio con tutta la mia stima. Pace bene. Intanto buonasera a tutti. È sempre bello vedere sale piene durante le presentazioni di libri. Non è una cosa che capita spesso, per cui è veramente complimenti a voi perché siete riusciti a mettere assieme tutte queste persone, quindi vuol dire che questo libro ha un senso. La genesi di questo testo è particolare. Io mi trovavo al circolo e Bruno, il presidente, mi dice: ma guarda, c'è il presidente, quello che è stato presidente per tanti anni del nostro circolo, che scrive. Io, va bene, sapendo che io appunto sono un editore, mi fa: ma ti faccio mandare le cose? Fatto: certo, manda. Ma ha già scritto, è abituato alla scrittura? Mi fa: no, non ha pubblicato niente. Per cui io lì per lì, lo dico, confesso, un po' mi spavento e dico: eccoci, mi arriveranno i soliti flussi di coscienza che iniziano a 80, quando si va un po' avanti con gli anni, per cui sarà un problema dover dire: guarda, no, insomma, queste cose non le pubblichiamo. Per cui mi arriva una paccata di racconti, di scritti, e dico: cavolo, no, qua mi sono sbagliato. E sono stato felicemente sorpreso e impressionato da questa abilità nella scrittura, nel raccontare con originalità fatti di vita quotidiana che però hanno il loro senso. Anche l'utilizzo delle parole che Pietro fa non è mai banale. Alterna appunto episodi comici a momenti di profonda riflessione, e questo nella sua scrittura non è mai forzato, per cui è quello che poi mi ha convinto a credere in questo progetto e far nascere questo libro, che è un libro importante perché sono oltre 200 pagine, per cui anche sul piano editoriale è stato un lavoro impegnativo. Abbiamo poi alimentato con illustrazioni che in alcuni di un illustratore fiorentino che arricchiscono e allo stesso tempo alleggeriscono tutta questa serie di racconti. Io sono grato, ecco, di aver potuto prendere parte a questo progetto, e quindi Pietro, preparati perché bisogna scriverne un altro. Anche perché l'abbiamo dovuto fermare a un certo punto: basta papà, basta, non scrivere più. Per cui adesso vi ringrazio di aver partecipato, scusatemi. Ma di cosa? La voglia era di non tediarvi e di far piacere di quello che non penso è l'aria, che... e io abbiamo combinato. Grazie e buona serata. Grazie.